Radio 24 e Salone del Libro 2012 presentano Piccolo Mondo Antico. Nel 2011 c'è stato il sorpasso. 21 milioni di telefoni fissi sono stati superati da altrettanti smartphone, i cellulari intelligenti, che permettono la navigazione sul web e la geolocalizzazione, oltre a foto, musica, video, con la possibilità di aggiungere infinite applicazioni. Sono passati meno di 40 anni da quando la telefonia mobile è arrivata in Italia. Fino ad allora il telefono era un disco di plastica trasparente con 10 buchi in corrispondenza dei numeri da comporre. Fino agli anni 80 il telefono era nel corridoio, installato sopra un termosifone che serviva da piano d'appoggio per la rubrica e l'elenco telefonico. Per guadagnare un po' di privacy, chi poteva si spostava a telefonare nella camera da letto, dove c'era il secondo telefono. Ma allora mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi? Ma quanto mi costi? Sei in teleselezione. Fino al 1998 il prefisso era necessario solo per le chiamate interurbane, mentre non serviva per chiamare un numero telefonico appartenente alla stessa rete urbana. Erano gli anni del telefonare ore pasti, quando fare una telefonata non significava parlare con qualcuno, ma solo cercarlo. Ma è reperibile da qualche parte? È rintracciabile? Sì, ma lei chi è, la madre? Signora, ma non sa dove si può rintracciare? Dov'è reperibile? Perché è una cosa urgente! È una cosa urgente! Gli SMS non esistevano e quindi accanto al telefono c'erano un block notice o dei fogli per gli appunti, accompagnati spesso da una penna scarica o una matita mai più temperata. I più fortunati però possedevano una segreteria telefonica, brevettata da un italiano, Arnaldo Piovesan, nel 1965 e successivamente venduta al colosso americano delle comunicazioni, AT&T. Gli italiani considerano il telefono come un prodotto nazionale fin dalla sua invenzione da parte di Antonio Meucci. Oggi in Italia ci sono 91 milioni di telefoni cellulari, con cui gli italiani inviano ogni anno 90 miliardi di SMS e parlano per circa 130 miliardi di minuti. Se un solo italiano dovesse parlare per tutti, ci metterebbe 247.336 anni. Guarda a me, toglimi tutto, ma non toccarmi il telefono. Non so come spiegartelo. Ecco, io senza il telefono sarei morto. Una telefonata allunga la vita. Proprio così. Piccolo Mondo Antico è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.